Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 11.504/17 è una sequenza di numeri destinata a restare nella storia, che identifica un fascicolo e una sentenza con relative motivazioni che di certo rivoluzioneranno il diritto di famiglia. È la sentenza della Cassazione che mette nero su bianco i criteri di quantificazione dell'assegno di divorzio, un addio ai parametri per cui il coniuge più debole economicamente poteva richiedere all'altro un assegno di mantenimento in base al tenore di vita sostenuto durante il matrimonio. Per gli ermellini l'assegno divorziale può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede possa dimostrare di non potersi procurare i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Avvocato Cassani, quando sono cominciate le telefonate ai tuoi clienti, da quando è uscita questa notizia ieri? Dalle 17.30 in poi è successo il finimondo. Ti chiamavano tutti? Sì, tutti. Uomini quanti... e donne, qual era il differente tono delle telefonate? Beh, gli uomini raggianti pensando di poter finalmente risolvere i propri problemi. Che sì, e vai. E le donne dice, avvocato, che cosa succede? Mi può dare qualche notizia? Mi Dove nascondo le scarpette, nascondo le pellicce? Come faccio a dimostrarmi di essere indigente? No, veramente è successo molti studi legali questo. Siamo stati bombardati per sapere la retroattività, che poi è un termine abbastanza improprio, di questa pronuncia. Ho spiegato che non è una legge, che è comunque un orientamento, che comunque dovrà essere poi in qualche modo recepito dai vari tribunali. Non è il caso di farne un dramma, però ovviamente è una sentenza importante. Allora, chi parla è l'avvocato Gianettore Cassani, presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, che ha scritto vari libri sul divorzio, sul matrimonio. Cito, vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia, ne sta scrivendo un altro, fra un po' ne parleremo, spero per primi. L'avvocato Cassani oggi è la star d'Italia, presente in tutti i giornali, cominciato a chiamarlo per intervistarlo da ieri pomeriggio, da quando si è saputo di questa straordinaria sentenza, straordinaria in quanto cambia completamente l'ottica. Oggi perché la gente non divorzia? Perché non si lascia? Perché? Perché soprattutto dal punto di vista degli uomini c'è il grosso dilemma di dire, ma io dovrò mantenere il tenore di vita che ho sempre mantenuto alla mia famiglia, soprattutto a mia moglie, per tutta la vita. Quindi cominciano i problemi, le guerre, i disastri. Questa sentenza della Cassazione capovolge quello che secondo me era una polpetta avvelenata che era nella legge del 70, perché l'Italia ha fatto un passo avanti di civiltà enorme, con battaglie, tumulti di piazza, me lo ricordo, ero ragazzo, la gente, c'erano tumulti di piazza, allora Almirante, divorziato fra l'altro, aizzava le piazze per salvaguardare la famiglia, una cosa un po' come Adinolfi oggi su altri temi, però c'era questa polpetta avvelenata, sì, ti puoi divorziare maschio, però sono cavoli tuoi, devi mantenere tutta la vita quello che hai in qualche maniera permesso come tenore di vita a tua famiglia. È così? Era una polpetta avvelenata? Ma è così, lo è ancora, e diciamo che la legge 898-70 aveva già chiarito il principio del tenore di vita, per cui tu mi lasci e devi mantenermi allo stesso livello che abbiamo avuto in costanza di matrimonio. È stato un principio portato avanti e che ancora oggi esiste, che può essere condivisibile o meno, tuttavia mi pare che la Cassazione abbia detto che il matrimonio non può essere un affare, non può essere una scalata sociale, dobbiamo cercare di capire che esiste anche poi il concetto di matrimonio per amore, un matrimonio con una scelta di coraggio e di autodeterminazione. E poi quando finisce tutto, anche la pacchia, il tenore di vita, se finisce l'amore finisce anche le condizioni per cui c'è il tenore di vita. Sì, assolutamente. Ma quindi... non era discriminatorio questo, cioè considerava la donna sempre qualcosa di sottomesso che l'uomo deve mantenere. Beh, dobbiamo ammettere che negli anni 70 la condizione femminile era piuttosto complessa. Oggi ci sono stati grandi passi avanti, tuttavia nel mezzogiorno d'Italia c'è ancora un tasso di disoccupazione piuttosto preoccupante. 800240024, tra qualche istante con l'avvocato Cassani, la persona oggi più richiesta per avere lumi su questa sentenza, che sicuramente, al di là dell'aspetto giuridico, cambierà molto anche l'assetto sociale, perché la gente penserà in maniera diversa anche quando si sposa e anche quando ha una crisi del corso del proprio matrimonio, perché una volta il terrore di finire sotto un ponte faceva sì che molte persone masticassero amaro e si tenessero dentro quello che probabilmente poteva uscire. La sicurezza, la certezza certa che una volta una persona ti ha sposato per tutta la vita, tu potrai fare quel tipo di vita a scapito comunque della sicurezza, della felicità, della compattezza, del diritto di un'altra persona di rifarsi una vita, oggi comunque cominciano ad essere messi in serio e precario equilibrio. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ad essere toccata in modo sostanziale la legge 898 del 70 che ha introdotto il divorzio in Italia, con il verdetto 11.504/17 si definiscono anche i principi per accertare l'indipendenza o meno dell'ex coniuge richiedente l'assegno. I criteri sono quattro e sono il possesso di redditi di qualsiasi genere, il possesso di cespiti patrimoniali, la capacità e possibilità di lavorare e la disponibilità di una casa. Questa di fatto è una riforma? Non è una riforma. Sì, è una nuova interpretazione della legge sulla base del comune sentire. Questa sentenza secondo 800024. Oggi parliamo di divorzio. Cosa cambia in questo esatto istante? Non saprei dirlo, ancora una sentenza della Corte, non è assolutamente è sicuro che questo possa corrispondere a un immediato cambiamento. La Cassazione ha detto questo, ha stabilito comunque un principio, che è un principio di novità da un punto di vista proprio della concezione ideologica di quello che deve essere un post matrimonio. Allora, con l'avvocato Gianetto Regassani cominciamo a entrare nei punti. Al di là dell'euforia, dell'impatto emotivo, oggi, da questa mattina, ancora non cambia nulla esattamente. No, non cambia nulla, anche se capisco che c'è un terremoto anche nelle discussioni tra gli italiani, insomma, c'è una preoccupazione da una parte, c'è un'euforia dall'altra, credo che dobbiamo ritrovare un minimo di equilibrio. Indubbiamente quando la Suprema Corte si pronuncia in questi termini sa perfettamente poi la portata anche politica e sociale di questi provvedimenti, non è il provvedimento di un piccolo tribunale. Ti posso fare una domanda sì. Che sembra maliziosa, dietro, anche se in tutte le maniere il protagonista aveva chiesto che non uscisse il suo nome, ma è un po' difficile non esca il nome di un ex ministro come quello di Vittorio Grilli. Ecco, se non ci fosse stata la vicenda personale matrimoniale di un ex ministro, secondo te, Gianettore, ci sarebbe stata una sentenza così clamorosa? Non possiamo dirlo. Non saprei dirlo, ma io però devo dire una cosa, che la Cassazione negli ultimi 10 anni si era già pronunciata però per cercare di ridimensionare al massimo la possibilità di ottenere l'assegno divorzile, quindi questo un po' lo vedo come il sigillo di un orientamento. Ti faccio un esempio, negli anni 80 nel 60% dei casi esisteva nei divorzi l'assegno di mantenimento, nel 60%. Oggi soltanto nel 19, quindi c'è un trend che dimostra che ormai ottenere l'assegno divorzile è sempre più difficile, ci sono sempre meno le condizioni per ottenerlo. Per cui poi consideriamo che già con la sentenza di 3 anni fa bastava che la moglie convivesse con un altro uomo che perde l'assegno. Ci sono altre pronunce che tendono già a non utilizzare come parametro il tenore di vita, quindi c'era già qualche avvisaglia. Poi c'è da dire una cosa, attenzione, chiariamo un concetto, non è che qui viene abrogato il diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento, vengono cambiati i parametri di quantificazione dell'assegno, cioè tu sei la moglie di un uomo o il marito, perché poi anche qualche uomo riceve l'assegno, di una persona molto ricca, ti diamo 10.000 euro, basta, non è che devi andare a guardare col bilancino quello che hai fatto, i viaggi che hai fatto, le pellicce, gioielli, devi avere un reddito sufficiente a vivere. Si può essere d'accordo? Perché, Gianetto, scusami, quel tipo di tenore di vita era subordinato al fatto che ci si amasse, che si stesse insieme. Un sodalizio. Non è che è un diritto a vita, anche quando non ci si ama più. E la fine di un amore non è sempre a senso unico, sinceramente. No. Un po' di corresponsabilità ce l'hanno tutti quando finisce una storia. Assolutamente sì. C'è sempre qualcosa che manca. Ovviamente io farei un distinguo tra quelli che sono i matrimoni di durata minima, da matrimoni molto lunghi, indubbiamente se la donna dimostra di aver dato un contributo notevole alla carriera del marito, forse potremmo anche modulare dei criteri. Sì, diversi. Qualcuno dice che in realtà questa è una sentenza che penalizza le donne, perché mentre in altri paesi più avanzati in cui il diritto già prescriveva questo, le donne hanno maggiore autonomia. Ma all'estero l'assegno divorzile non è che sia una cosa tanto facile da ottenere se non fai i patti prematrimoniali, perché all'estero c'è un concetto di dignità sociale un po' diverso. In Italia sono ancora proibiti i patti. Assolutamente, c'è lo studio un disegno di legge bipartisan alla Commissione Giustizia del Senato. Perché sono proibiti, Gianetto? Sei mai chiesto? Perché noi siamo degli ipocriti, perché siamo un paese dove non vogliamo ammettere che il matrimonio è un vero e proprio contratto, per cui il patto prematrimoniale, che è un contratto, andrebbe a svilire il significato sociale e morale del matrimonio. Qui c'è sempre l'occhiolino di Dio dietro la nuvola che dice: cavoli tuoi, hai separato quello che io ho unito nel regno dei cieli. Esattamente, c'è questo atteggiamento che non riesco minimamente a capire, ma se due persone decidono di contrattualizzare i loro accordi prematrimoniali, che tra l'altro esistevano nell'antica Roma, a Roma esistevano i pacta prenuziala, esistono in tutti i paesi dell'Occidente, in Italia no, quindi che cosa succede? Che le sorti di una coppia sono demandate alla sensibilità del singolo giudice e non agli accordi, quindi alla libera decisione di dire ti do 30.000 euro al mese se io ti lascerò con la bionda che passa sotto casa. No, tutto è legato poi ai continui umori della giurisprudenza, e secondo me c'è anche un'incertezza piuttosto evidente. Allora andiamo al punto vero, che riassumo in questo SMS che scrive l'ascoltatrice Marzia. È il solito maschilismo. Ecco un'altra legge a favore degli uomini che sono sempre protetti, anche se fedifraghi e infedeli. Vabbè. Vogliamo anche dare una medaglia a chi uccide le mogli e le compagne? Concetto che poi viene ribadito dall'ascoltatrice Anna, che è al telefono. Sì, però voglio dire una cosa, che la maggior parte di queste sentenze che sono degli ultimi anni sono state firmate da donne. E la maggior parte delle sezioni specializzate nel diritto di famiglia in Italia sono donna nell'80% dei casi. Quindi io non farei un discorso di genere becero che non ha alcun significato, a mio parere. Io non faccio altro che riflettere il senso, perché sì, ma in effetti c'è questa reazione improvvisamente, le donne si scoprono che hanno un po' più il culo scoperto di prima dal punto di vista del matrimonio che si finisce. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, anch'io non ne faccio una questione di genere, diventa di genere nel momento in cui si guardano le statistiche. È chiaro che le donne sono pagate di meno, lavorano di meno, eccetera eccetera. Detto questo, ci tengo a dire che questa, ovviamente, questa sentenza, questa opinione, questo parere, eccetera eccetera, mi sembra veramente una stupidaggine, perché premetto che non sono separata e che non sono, spero, in odore di eccetera eccetera, però riflettevo sul fatto che quante donne non hanno lavorato o hanno riorientato il loro percorso professionale, quelle fortunate che hanno il lavoro, magari con un part time, magari rinunciando a dei progressi di carriera eccetera eccetera, nell'arco di matrimoni che durano 20-30 anni, questo per occuparsi della famiglia. Allora introduciamo anche il pagamento per quanto riguarda il lavoro. Io ovviamente lavoro molto molto di più di mio marito, mi sento di dire questo. Non solo, questo è come la storia dell'affido congiunto. L'affido congiunto, penso che l'avvocato me ne darà ragione, si fa tipicamente laddove esiste una nonna, suocera, nel senso mamma del maschio divorziato. Praticamente si fa l'affido congiunto, io vedo tanti casi intorno a me, tra la mamma dei figli e la suocera. Questo è l'affido congiunto. Beh, non esageriamo, perché non è così. Perché lui continua a lavorare, questo è l'affido congiunto. Vabbè, Anna, lei dice quello che sintetizza quello che oggi dice un editoriale sulla Stampa di Linda Laura Sabbadin, certificata una parità non c'è, che mette anche in conto, giustamente. Sì, ma tanto la gente non si sposa più, guardate che la gente non si sposa, abbiamo il minimo storico. Diciamo, noi stiamo registrando una situazione che fa parte del passato. Allora, 7 uomini che... su 10 intervistati a 30 anni sulla necessità o meno di sposarsi, io non mi sposo perché ho paura di finire sotto i ponti. Vogliamo ragionare anche in termini sociali? Che vogliamo fare? Vogliamo distruggere il matrimonio? Lo distruggiamo se non diamo certezze. Allora dobbiamo vedere le ragioni degli uni e degli altri. Io giù sotto qui alla radio vedo due barboni che sicuramente saranno due padri separati, visto che ne sono 90.000 a Roma. Uno che dei sono... due una settimana fa si accoppiava con una gentile fanciulla. Allora voglio dire, un fatto nazionale. Perché questo fenomeno dei padri separati perché passa sotto silenzio? Questo a me quello che mi fa veramente inorridire è che noi dimentichiamo che esistono milioni di padri separati, e non ne facciamo un discorso di genere, lo ripeto, ma perché non se ne parla? Però parliamo, ci preoccupiamo tutti che la signora che ha lavorato giustamente per il marito è che stata accanto, che magari non avrà magari l'assegno a 5 zeri ma l'avrà a 4, pare che ci sia un attentato alle donne. Non è così. Io penso invece, mi preoccupo delle donne che dovrebbero ricevere l'assegno, che magari vivono in situazioni difficili, i mariti non li pagano, i mariti non vanno in galera e non c'è nessun modo per poterle tutelare. Questo è quello che mi preoccupa. Le donne del popolo, le donne che hanno redditi bassi, non la moglie del grande imprenditore, il grande professionista, perché secondo me questa sentenza è orientata soprattutto per questo tipo di situazioni. Per le persone che hanno esaurito io mi preoccuperei delle realtà in cui l'assegno è invece stabilito per legge dal giudice, qualche marito, più di qualche marito, non lo paga, e non lo paga manco per i figli, e non c'è, io non ho mai visto nella mia vita uno che abbia avuto una condanna e sia andato in galera per non aver pagato gli assegni ai figli e alla moglie. Potrei situazioni di amiche che conosco. Questa è la vera preoccupazione. Per i 500 euro al mese con cui dovrebbero pagare il mutuo sono in grave difficoltà e il marito da anni non paga e non succede nulla. Esatto. Nicola, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Mi sente? Sì. Sì, io volevo intervenire, ho seguito con attenzione di diversi interventi, anche quello di Anna e quello del collega, e ritengo che vada fatta una precisazione. In definitiva abbiamo un'interpretazione importante che arriva a distanza di tanti e tanti anni. Anche quella precedente era un'interpretazione, cioè sia la giurisprudenza di merito sia la giurisprudenza di legittimità interpretavano sulla base di quella che è stata una legge giustissima per l'Italia, tant'è che ha superato anche lo scoglio del referendum, la legge sul divorzio non dava dei criteri precisi, perché nessuna legge può dare dei criteri precisi, c'è sempre l'applicazione dell'autorità giudiziaria. Se il discorso deve essere fatto, a mio parere va fatto sotto quest'ottica. Non bisogna confondere assolutamente quella che è la questione relativa a chi lavora all'interno della famiglia o tra i coniugi, perché i coniugi devono avere uguale parità. Allora, la questione patrimoniale è già stata affrontata dal legislatore proprio sulla base di quella che è stata la riforma del diritto di famiglia, cosa totalmente diversa da quella che oggi è la questione che attiene all'assegno di maternità. Beh, quello che stava dicendo l'avvocato Gassani, è un trend che era già visibile da altri indicatori. Sì. Questa è clamorosa in quanto lo dice, lo sancisce in maniera molto, molto precisa e definita. Ma è chiaro, si sta cambiando qualcosa, ma cambia anche la società. Sono sempre meno, se Dio vuole, le donne che si fregiano del sacrificio di rinunciare al lavoro per allevare i figli. I figli si allevano anche i mariti, se li vogliono allevare, anche i padri. Si vedono sempre io a mia, più, figlia, a mia figlia sto dicendo già da adesso di trovarsi la propria indipendenza economica, non dipendere da un uomo e non considerare il matrimonio come l'unica realizzazione. È una, per me è diventato un tormento. Voglio che mia figlia sia donna libera. Non deve avere bisogno di nessuno, se vuole sposarsi si sposerà, ma per lei il matrimonio deve essere qualcosa di molto serio e non certamente uno, non mai una sistemazione economica, anzi sia lei magari a mantenere il marito piuttosto. Sì, così può sceglierlo a suo piacimento, lo sceglie a suo piacimento, se lo mantiene lei, solo come così vuole. Francamente potremmo avere una società diversa, cioè con donne libere anche dalla stessa schiavitù del matrimonio, perché ancora oggi una donna che non si sposa in alcune realtà sembra quasi che sia una figura, ma chi se ne frega, non ti sposi. Conosco fior di professioniste autonome, libere, potrebbero fare una vita bellissima, hanno questo cruccio, ma non ho un uomo che pensa a me. Dico a mia figlia, figlia mia, non te sposa, stai tranquilla, pensa a studiare, pensa a te stessa, pensa a realizzarti, a essere una donna libera, poi certo, vediamo. Detto da un padre avvocato matrimonialista. Infatti, proprio perché sono un matrimonialista. E beh, poi finisce, i clienti ti finiscono, se ti sposa più nessuno che fa? Mi occupo anche di altro, per fortuna, sono solo di separazione e divorzio. Ci fermiamo solo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Guarda, io mica c'ho bisogno del Viagra come te, sai. Facete con mia nonna, altro che Viagra, plutonio ci vorrebbe. Ma perché, chi è che va letto con i vecchi? Ci vado io. Per arrotondare accompagno le signore mature, va bene? Vabbè, fare escort. No, accompagnatore. Se pagano per scoparsi in battone. Ti dico che le accompagno. E dove le accompagno? Quale battone? A casa, in hotel, dove capita? Ma sempre macchina. No, dico protetto. Ma certo, me ne metto due, doppio calzettone. Chiudo l'occhio e parto l'immagine. Questa è la storia tristissima di tre ex mariti divorziati che per mantenere le mogli sono ridotti come studenti, vivono in un appartamentino, vivono ad espedienti. Uno di loro a me è costretto a vendere il proprio corpo a donne attempate per mantenere le mogli. E tu ridi, avvocato Gassani, ma situazioni già ne viste. Sì, ne conosco tante queste situazioni. Ma il gigolò è diventato quasi un doppio lavoro a Roma. Sì, ma perché c'è mercato? Sì. Cioè si cercano ex divorziati, diciamo, divorziati che devono mantenere le mogli. Come no, ma è almeno da ventina d'anni c'è tutto un fenomeno anche di gigolò. Noi pensiamo sempre all'escort, sempre al fatto al femminile o ai trans, insomma. Cioè, esiste anche un componente maschile di prostituti. Beh, quindi come vedi il problema è trasversale. Sotto il ponte Mazzini con i topi, uno va con qualche signora attempata e si concede, ahimè, sì, che devo fare. Ci toccherà anche a noi, può essere. Vediamo, qualcuno, sono molto interessati per capire, gli ascoltatori, se questa legge, tu già l'hai detto, questa sentenza avrà un effetto retroattivo. Tutti pensano a Berlusconi e Veronica, naturalmente. Sì, si potrà sicuramente presentare un ricorso e chiedere che vengano applicati nuovi criteri. Poi bisogna vedere se il tribunale li accoglierà, se quel tribunale accoglie questi nuovi principi. Vedremo. Però indubbiamente quando la Suprema Corte di Cassazione si muove, indubbiamente si muove molto. C'è qualcosa che ancora non è stato considerato in questa sentenza, che non è estendibile ai figli. Quindi una donna divorziata che ha figli comunque può continuare a pretendere per i figli il tenore di vita come prima funzionava anche per la moglie, tenore in vita che il marito aveva sempre assicurato. Diciamo che i figli, se andavano alla scuola privata, se avevano una serie di vantaggi, di solito i tribunali cercano di confermarli. se sono piccoli o vivono ancora presso la mamma, i soldi vengono versati direttamente alla madre, che non ha un obbligo di rendicontazione, salvo le spese straordinarie. Se però i figli vanno via di casa, comunque vengono mantenuti lo stesso anche a 30 anni se non sono riusciti a trovare una propria dimensione professionale. Allegria, questa cosa proprio. Ecco, forse la Cassazione dovrebbe intervenire soprattutto su questo, perché siccome non ha stabilito il criterio dell'età, del limite oltre il quale l'assegno non può essere più dato, ecco, forse su questo credo che dovremmo intervenire, perché abbiamo in qualche modo incentivato una sorta di generazione di persone. Quindi diciamo che questa mattina le donne divorziate che ancora hanno figli sotto mano possono comunque continuare a far la cresta su quello che il marito dà ai figli. Insomma, in teoria sì. Qualcuno la fa, qualcuno no, adesso non voglio essere... Però non possono non devono però non c'è la rendicontazione, no, la rendicontazione non c'è, se ne è parlato più volte, però le spese di mantenimento riguardano il vitto, il vestiario e altro. Dico, poi sono bambina, tutte le spese straordinarie che sono tutta di al papà storia. Che vuole la borsetta di Gucci, ti dico qual è il modello, il padre gliela compra, se tiene la madre... Beh, c'è di tutto è di più, insomma, ma così. Non voglio essere così, così cattivo, però indubbiamente la rendicontazione sarebbe un discorso di trasparenza. Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, io non sono non è la mia famiglia tipo quella che ti avevo descritto fino adesso, cioè le mie borse costano 10 euro, i miei pantaloni costano 15. Parte, allora, mio marito fa un lavoro normale, onesto, però prende una busta paga 1.300, le dico anche le cifre, 1.400 euro al mese, e non ci lamentiamo perché sono fisse. Però state assieme ancora? Sì, siamo assieme, ma non siamo separati. Allora, però volevo dire una cosa, finché io adesso sto male, non posso più, purtroppo sono la chiamo dal letto, e non è una roba che non guarisce più. Però, allora, il tempo che io ho usato da ragazza, perché adesso ho 54 anni, a lavare, stirare, cucinare, risparmiare su tutto, risparmiare anche sulla lavanderia, risparmiare sì, su... Sì, scusi, Maria, la interrompo a fare l'elenco, scusi, ma perché si pone sto problema? Allora, vuol lasciare suo marito? Un giudice come lo conteggia? Cioè una donna che... Sì, sì, scusi, un giudice non può conteggiare... Cioè non è l'equazione di una cosa. L'elenco del pianto, le donne che hanno dedicato gli anni migliori ai loro mariti. Primo, nessuna legge l'obbligava a farle, perché... scusi, no, perché sennò tutta la vita continuiamo con i debiti di riconoscenza. Le mamme diranno sempre ti ho partorito con dolore, le mogli diranno sempre e gli anni che ho lavato i panni, ti ho lavato i calzini, come li... Si comincia a un certo punto, se bisogna cambiare le cose, si fa un punto, si traccia una linea, dice da oggi si cambia. Non è che per altri 20 anni saranno mogli che fanno vedere le mani con le piaghe da bucato, anche perché è una cosa molto ipotetica. Avvocato Gassani. Beh, indubbiamente l'Italia cambia, cambiano anche i criteri. Io capisco soprattutto quelle donne che hanno sacrificato la propria vita per i mariti. Ecco, su questo credo che qualche correttivo alla sentenza ci dovrebbe essere. Sì, però dobbiamo il sacrificio non sacrificio è un obbligo. Deve, esatto, è una scelta d'amore, di coraggio. Infatti lo dice la Cassazione. Non si rinfaccia il sacrificio. Non si può dire mi devi liquidare anni di bucato, anni di sacrificio. Per carità, anche se poi in effetti tutto sommato si deve in qualche modo riconoscere, però non possiamo impostare la cosa in questi termini, anche perché sì, siamo arrivati no, al minimo... No, prossimi 20 anni, scusami Gianette, staremo ancora a fare il conto delle mutande smacchiate dalle mogli e non andiamo mai sì, avanti. Infatti la conseguenza di questa crisi uomo contro donna sta portando poi all'estinzione del matrimonio. Forse cerchiamo di trovare un punto d'incontro, perché altrimenti fra 10 anni ci saranno solo convivenze, con tutto il rispetto per le convivenze, ma sarà finito il matrimonio. Tanto è vero che siamo arrivati al minimo storico l'anno scorso come numero di matrimoni, abbiamo un tasso di nuzialità e di natalità che ha i livelli più bassi della terra. Devo sapere il paradosso di quello che stiamo dicendo. Questo SMS scrive Silvano: le casalinghe dovrebbero cautelarsi il futuro facendosi pagare nell'obbligo coniugale. È paradossale. Sì, molte volte diventa uno strumento di ricatto, però. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Porto la mia esperienza. Io sono passato da un divorzio e la legge come era prima effettivamente era tremendamente ingiusta e sicuramente invoglia a non sposarsi assolutamente. Sì, sì. Praticamente mi ha lasciato mia moglie e io mi sono reso conto tramite un mio amico avvocato di come erano le leggi e che secondo la legge come era, oltre a essere lasciato, avrei dovuto anche pagarle qualcosa perché alla fine il mio reddito era superiore a quello di mia moglie. Io non ci credevo a questa cosa qua, non volevo crederci. E lui mi ha detto, guarda, io ti racconto, ho avuto un cliente che è tornato a casa, ha trovato la moglie a letto con un compagno di scuola della figlia. Adesso lui è divorziato e sta pagando soldi alla moglie e alla figlia. Guardi Gianluca, io avevo l'avvocato Gassani ospite un paio di settimane fa. Abbiamo avuto un siparetto, ma involontario. Sì, ha chiamato un signore dicendo: torno a casa con i carabinieri che ho visto un'ombra sospetta, trovo mia moglie a letto con un altro. E dico, ma sicuro? E poi mi facessero l'amore? Sì, sì, sicuro. Ma dico, ma c'era penetrazione? Mi ha detto, doppia penetrazione. Io mi sono messo a ridere. Sì. Ma in realtà lui diceva, la seconda persona a essere penetrata in senso metaforico è stato lui, perché anche in quel caso un magistrato non ha deciso che quell'atto, in quanto sporadico, unico e casuale, fosse causa di colpa per addebito, e quindi paga anche lui gli alimenti a questa moglie l'ha trovata nel letto. Ecco perché il matrimonio sta scomparendo, perché non esiste alcuna possibilità di garanzia dall'una e dall'altra parte. Secondo me i patti prematrimoniali, ne lo dicevo prima, potrebbero risolvere tante cose, patti chiari, amici, amicizia lunga, prima di sposarci stabiliamo quale potrebbe essere l'assegno di divorzio, se te lo devo dare, non te lo devo dare, la casa al mare a chi va, il comò della nonna all'ingresso a destra a chi andrà, cioè stabiliamo le regole prima. Se usi il talamo coniugale in maniera impropria, esatto, decidiamo cosa costa, esatto, questo. Però c'era un principio superiore, nasce con un atto concordatario, fu un grande compromesso in cui dovevamo dire che comunque esiste sempre questo aspetto sacrale e socialmente intangibile del matrimonio. Sai che a Roma, che è la città dove praticamente per la della cristianità per eccellenza, ci sono più matrimoni al comune che in chiesa? Vabbè, qualcuno deve farsi qualche domanda. Ecco. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. 800240024, cosa cambierà nella società italiana dal momento che il matrimonio sta perdendo pezzi, ma sta perdendo pezzi solo come istituzione intesa come qualcosa di sacro, di intoccabile, intangibile. Guadagna, secondo me, punti nel considerare una piacevole, simpatica, divertente, ottimista possibilità di fare un patto fra due esseri umani che dicono passiamo assieme una parte della nostra vita, dividiamoci oneri e piaceri, e quando finisce, perché potrebbe finire, stiamocene tranquilli, non è scritto da nessuna parte questa cosa di durare per l'eternità. Giuseppina, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Io volevo portare la mia testimonianza in questo senso. Sono 60 anni, ho lottato per i miei diritti e oggi con questa sentenza finalmente posso dire evviva, evviva, evviva. Io la sento come una sentenza che sicuramente dà quella parità alla donna che secondo me talvolta con certe differenziazioni la donna non ha. La donna deve essere, con questa sentenza si sente sicuramente, io mi sento sicuramente libera. Brava. Mi vergognavo come donna quando sentivo, ovviamente si parlava sempre di situazioni magari di personaggi o quant'altro che dovevano mantenere la moglie con quella, è vergognoso. Diciamo, sono ex mogli di calciatori che hanno delle mensilità a 6-0, cose del genere. È assurdo, è vergognoso, io lo ritengo un termine corretto, vergognoso. Io come donna mi sarei vergognata. Scusi, lei, no, Giuseppina, l'argomento sollevato dall'ascoltatrice poco fa dal suo letto di dolore, ma anche lo stanno scrivendo tutti, il debito emotivo, il ricatto morale dei calzini lavati, non è ora di tracciare un punto di inizio di qualcosa di nuovo? Perché sennò nei prossimi 50 anni staremo ancora a pagare come fossero le vedove di guerra, capito? Le persone che hanno lavato i calzini e le mutande tutta la vita dicono adesso che facciamo? Guardate le nostre mani rovinate dal detersivo, dall'acido per pulire i gabinetti, di noi cosa si farà? Cominceranno le persone a stabilire in questo nuovo rapporto che i calzini ognuno si lava i suoi o si lavano in giorni alternati e i gabinetti si lavano anche quelli in giorni alternati, non è giusto questo? Stai a casa, e guardi che lavorare non è divertente. Io oggi sono in pensione, opzione donna, per purtroppo perché ho perso il lavoro, meno male, opzione donna, sono una donna che ha lavorato tanto e le posso dire che stare a casa è uno spasso, ma dove? Queste sono mantenute una vita dall'uomo che va al lavoro per scelta, anche perché oggi se uno vuole può lavorare al di là di trovarlo o non trovarlo, Quindi se uno va male che vada, si sta bene a fare le calze. Scusi Anna, Giuseppina, uno male che vada, se proprio questa attitudine di lavare i calzini va a lavarli a qualcun altro, si fa pagare. E, se proprio è questa, diciamo, a parità, apre una lavanderia e lava i calzini e si fa pagare per lavare i calzini e il marito si arrangia. Non vedo questa sorta di vocazione quasi monastica. Maurizio. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo portare la mia testimonianza a proposito delle furberie delle ex mogli. Io per anni ho ricevuto sugli extra dei biglietti con degli importi segnati e un totale da rimborsare, immaginando e subodorando la possibile furberia. A un certo punto chiesi, ottenni di avere le pezze giustificative, quindi scontrini, fatture eccetera eccetera, fino a quando 4 anni fa mi arrivò la fattura di un paio d'occhiali ufficialmente per uno dei miei figli da 480 euro. E siccome mio figlio l'oculista gli aveva prescritto una semplice riposavista, mi venne un dubbio. Per cui presi l'auto, andai nel negozio di ottica e chiesi di poter verificare quale fosse la montatura acquistata. Era la montatura da donna. Che è una piccola furberia, ma lo diciamo prima con l'avvocato Gassani. Esatto. Questo non obbligo di rendicontazione fa sì che gli abitucci per i poveri bambini erano gli abiti per le madri. Allora, vediamo di tirare delle conclusioni, Gianetto, che siamo arrivati vicino alla conclusione della trasmissione. Continuo a insistere sul fatto se è retroattiva. La gente che ha già una situazione in mano, tipo questo signore, vuol sapere che cambia. Allora, per me questo è un orientamento, non è una legge. Retroattività è un termine un po' improprio. Si può sicuramente chiedere al proprio tribunale di appartenenza di riaprire una causa definita e ridiscutere sull'assegno sulla base di questi criteri. Poi ci saranno tribunali che li accoglieranno subito, altri tribunali no. Bisogna aspettare adesso un po' di tempo, certamente. Ecco, però, l'iter quale? Cosa dovrebbe succedere adesso perché cambi veramente, anche da un punto di vista proprio reale, la legge? Si presenta un ricorso presso il tribunale ex articolo 710, già previsto da anni, in cui si chiede che, appunto, sulla base del nuovo principio emanato dalla Suprema Corte, quell'assegno di X euro possa essere eventualmente diminuito sulla base di criteri diversi. Però è sempre allora a discrezione del giudice. Sì, ma poi c'è anche da dire che secondo me poi ci sarebbero altre questioni, insomma, quando si sono cristallizzate certe situazioni bisogna stare attenti. Però indubbiamente da una parte dobbiamo tutelare le donne che effettivamente l'assegno non lo ricevono e dall'altra parte dobbiamo in qualche modo moralizzare il diritto di famiglia, perché quando si vedono assegni enormi che rappresentano il guadagno di un operaio 10 anni, tu lo hai in un mese, ecco, forse su quello uomini e donne dovrebbero andare d'accordo. Attenzione, questo riguarda anche le unioni civili, perché tutti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di divorzio si applicano automaticamente alle coppie dello stesso sesso. Quindi anche se Pasquale e Andrea o Carolina e Concetta dovessero unirsi civilmente, in caso di divorzio, perché lì esiste il divorzio anche nelle unioni civili, lo stesso principio. Quindi non è un discorso uomo-donna, è un discorso di una nuova ridefinizione della coppia. Ma sì, ma non chiamiamolo più matrimonio, che è qualcosa che è ancora intriso, cioè, stare in coppia, è intriso di valori impalpabili, capito? Chiamiamolo, è un contratto che fanno delle persone per passare della vita assieme, come fosse un contratto d'affitto, non vedo la differenza. Chi volesse poi, nella massima libertà, mantenere un aspetto sacrale dell'unione fra due esseri umani, ci sono le chiese che non chiedono di meglio, fa il corso prematrimoniale, fa tutto quello che deve fare, va dal prete, va dal rabbino, va da chi vuole e si consacra alla propria unione. Io dico che c'è una norma di salvaguardia nel diritto di famiglia, si chiama buonsenso, per cui il giudice deve avere solamente il buonsenso caso per caso, punto. Ultima battuta, Anna, proprio una battuta, manca un minuto, Anna. Sì. Niente, io volevo chiedere solo questa cosa. Io sono separata da 30 anni. Ho cresciuto un figlio in tutte le mie difficoltà, ora sono anche invalida e tutto, non ho mai ricevuto niente di quello che il giudice aveva stabilito per il mio figlio e per me. E praticamente adesso, dopo 30 anni di separazione, mio ex marito è riuscito a mettermi un biglietto nella cassetta dicendo che vuole il divorzio. Ma io dopo 30 anni posso chiedere tutto quello che avevo... tutto quello che ho fatto per mio figlio, almeno quello? Beh, la vedo un po' difficile nei corsi tutti questi anni. Indubbiamente sulle ultime cifre sì, però insomma poi c'è anche un problema. Lei perché non ha fatto nulla in questi anni? Perché questa inerzia? Perché perché avevo paura di quella persona. Non esiste allora legge che possa compensare. Tutte le donne, tutti gli uomini, tutte le coppie a tutelare i propri diritti subito e non avere paura. Grazie avvocato Gassani, grazie a quelli che hanno partecipato. Ci riaggiorneremo quando ci sarà qualcosa di nuovo su questo tema che mi sembra molto sentito dal nostro pubblico. Alla prossima.